L'ossigeno sull'aereo, innanzitutto, sgombiamo il campo da un equivoco. Benché noi viaggiamo a quote molto alte e quindi l'atmosfera è molto rarefatta, noi non abbiamo bisogno di portarci dietro l'ossigeno per il funzionamento del motore, cosa che sarebbe impossibile. Un motore, come tutti i motori a combustione, brucia ossigeno e kerosene, nel nostro caso, in proporzione di 15 a 1, quindi per 10 tonnellate di kerosene, volo di durata media, dovremmo portarci dietro 150 tonnellate di ossigeno, cosa impossibile, diventerebbe una bomba volante. L'ossigeno è pericolosissimo da manipolare in queste condizioni. L'aria la troviamo fuori. Ce n'è abbastanza? Sì, ce n'è abbastanza, anche perché un motore a getto si compone strutturalmente di un compressore, una camera di combustione dove avviene appunto la miscelazione della combustione tra aria e kerosene, e una turbina, dopodiché si passa allo scarico. La turbina, investita dai gas di scarico, serve a far girare il compressore. Quindi noi preleviamo aria dall'esterno, la comprimiamo in maniera di averla adatta, diciamo così, per la combustione del motore, dopodiché brucia e manda avanti l'aereo. Quindi la soluzione del quiz era: di ossigeno ce n'è quanto basta.